E buonasera, buonasera radioascoltatori di Radio Alma. Siamo finalmente in diretta sui colori dell'anima. Siamo su Radio Alma, www.radioalma.eu, se ci volete ascoltare in streaming, o ancora 101.09. Ed eccoci di ritorno il 22 settembre, lunedì, con la vostra puntata preferita dei colori dell'anima. E qui con me il carissimo Leandro e la carissima Tiziana. Ciao ragazzi, bentrovati a tutti, ci rivediamo dall'estate. Esattamente, adesso siamo ritornati, siamo in inverno. Vabbè, l'avevano capito che praticamente arrivavamo noi e arrivavamo un pochino in ritardo, perché a noi ci piace farvi le sorprese, farvi aspettare. E però siamo arrivati. Esatto. Qua dalla splendida vacanza assolata siamo ritornati nella splendida Bruxelles bagnata. Basta, sembra che ci lamentiamo. No, basta lamentarsi. Da quest'anno si cambia, vi avverto. Niente lamentele quest'anno. Niente lamentele. Bruxelles splende il sole. Ecco, è meravigliosa. Noi tutti e tre siamo tornati dalle vacanze, siamo tutti e tre belli rotondetti, si vede che abbiamo passato delle belle vacanze in famiglia. E vabbè, ma cosa vuoi, dopo delle vacanze in Sicilia cosa pretendi? Ecco, stavolta non ci sono stati cannoli per riaprire la trasmissione, però vabbè, facciamo la prossima volta. Quando la finiamo. Allora, ragazzi, noi vi raccomandiamo di scrivere, questa sarà una puntata estremamente interessante. Potete scriverci sulla nostra pagina Facebook Rossella Tiziana e Leandro Oneir. Rossella virgola Tiziana e Leandro Oneir. Grazie, caro Leandro. E o ancora contattarci al telefono, per chi chiama dal Belgio, 02345 2656. Prego. Mandare un sms al 0486 94 11 29 0486 94 11 29. Eccolo, è tornato Leandro, per favore contieniti. Sì ragazzi, mi raccomando, fatevi sentire su Facebook, sappiamo che siete già tanti e numerosi. Infatti vorrei fare il primo round di saluti, se mi permettete. Grazie a Rosa Giuliano, Giusy Forlani, Gianni Oderda, Giovanni Volpe, Bendemagio, Quanto City, mi stai confondendo. Ciao a tutti. Grazie per seguirci, ragazzi. E ciao ad Alessandra Mangiaragina, un bacio. Ed eccoci, adesso mi sa che possiamo partire forse con la prima canzone per salutarci, per riprendere con una carica di energia positiva. Esatto. Una canzone che ci ricorda le vacanze. È la canzone di Todo Vuelve. Si chiama Todo Vuelve e il gruppo Che Sudaca. Eccoci qua di nuovo dagli studi di Bruxelles di Radio Alma. Allora, abbiamo ascoltato una bellissima canzone, ma tu... Sì, Leandro, grazie che me l'avete messa, perché ogni tanto qui bisogna lottare per farci mettere le canzoni. Era una canzone molto bella di questo gruppo, che è un gruppo argentino e colombiano, e che in realtà vivono a Barcellona e fanno questa musica molto allegra, molto sì, frizzante, però con un testo molto, in realtà abbastanza impegnativo. E il testo si chiama Todo Vuelve, che vuol dire tutto ritorna. E infatti questa, ragazzi, sarà una puntata un po' particolare. In effetti tutto ritorna, è vero, noi abbiamo già parlato nel passato di essere ponti, di costruire ponti di fratellanza. Ecco, noi oggi vogliamo parlare di un evento che ha proprio lo scopo di quello di costruire dei ponti di dialogo attraverso delle religioni. Ora non vi spaventate, perché non è niente non siamo costruttori, non siamo nemmeno filosofi metafisici, come si capisce bene. Però praticamente il 18 ottobre c'è un evento speciale. Esatto, a Bruxelles, a Madou, alla Salle Clarige di Chaussée de Louvain 24, per chi non sa francese come me, che si chiama Concert de la Fraternité. E cosa consiste questo Concert de la Fraternité? È praticamente un evento musicale in cui si alterneranno gruppi cattolici, ma anche gruppi musulmani. Ecco, è stato organizzato da un movimento cristiano cattolico che si chiama Movimento dei Focolari. E noi abbiamo qua due graditissimi ospiti, uno che tutte e due che vengono da posti belgi, assolutamente belgi, tutte e due belgi come noi. Infatti uno è siciliano e l'altro viene dal Ruanda. Ma partiamo col siciliano. Siciliano Tony, ciao, come stai? Ciao, bene, che bello essere qui. Io sono appena arrivato qui a Bruxelles, sono qui da alcuni mesi, vengo appunto, come diceva Leandro, dalla Sicilia, qua abbiamo una maggioranza di siciliani che si sente, ed sono qui a Bruxelles proprio per lavorare, a collaborare col Movimento dei Focolari. Ma cos'è il Movimento dei Focolari? Ma è un po' difficile dare una definizione fanno sintetica. Fuochi d'artificio, fuoco... Sì, ecco. È un movimento che è nato all'interno della Chiesa Cattolica da una riscoperta della vita concreta del Vangelo attuata nella quotidianità, nelle cose più semplici, e a cui adesso, che dall'Italia si è diffuso in tante parti del mondo e che è venuto in contatto con persone non solamente cattoliche ma anche di altre chiese cristiane e soprattutto con tante persone di altre religioni e con persone che non hanno una fede religiosa particolare ma che sentono l'ideale che è alla base del movimento, che si esprime in quella preghiera che Gesù ha detto alla fine della sua vita, che tutti siano uno, cioè di domandare l'unità fra le persone e di creare una possibilità di collegarci, di costruire questi ponti, come dicevi tu prima, Leandro, fra di noi, per scoprire la bellezza che c'è nell'altro e nelle differenze che abbiamo fra di noi. Mi sembra una cosa molto interessante, soprattutto c'è bisogno, soprattutto in questo momento in cui si parla tanto di guerra, di terrorismo, che sono tristi realtà presenti, ma ci sono anche altre realtà. E mi sembra molto interessante questa di un movimento che, a quanto ho capito, è proprio assolutamente cattolico, però che di cui fanno parte anche persone di altre fedi. Sì. Diciamo, non è stato niente di programmato a tavolino, ma da un invito, da un premio che ha ricevuto la fondatrice del movimento, Chiara Lubich, in Inghilterra, un premio per la pace, e lei è venuta in contatto, in dialogo con persone di altre religioni, proprio in quell'occasione, una cosa inaspettata, raccontando la sua esperienza di cattolica, ha trovato una sintonia, e allora da quel momento in poi il movimento si è aperto al dialogo con tutte le persone di altre religioni, e sono tante le esperienze veramente forti. In Algeria, per esempio, il movimento è all'80% formato da persone musulmane, in Thailandia ci sono moltissimi contatti con i buddisti, che hanno trovato una luce nuova per approfondire la loro fede, e così anche in India, in America o addirittura anche in Africa, dove un villaggio di religione tradizionale ha abbracciato l'ideale. La bellezza del dialogo che noi cerchiamo di sfiorare è proprio quello di lasciare libero la persona di approfondire la propria fede e di scoprire nella propria fede quei germi, quelle cose che ci portano all'unità, che ci fanno più fratelli. Quindi, se non ho capito male, correggimi se sbaglio, praticamente lo scopo non è quello di convertire, ma come ci si pone rispetto all'altro, a quello che professa una religione diversa? Si ci pone come un fratello, intanto, no? E allora il tuo fratello lo ascolti e lo sostieni anche l'aiuto concreto, e soprattutto quello che chiediamo è specialmente, che chiediamo, insomma, che viene poi, che nasce automatico nell'altro, è di scoprire più profondamente la propria religione, proprio perdonarlo, perdonarlo all'altro. Ecco, diciamo, non è un cammino semplice, però tu noti che c'è un arricchimento reciproco, perché si scoprono delle cose che tu magari non sei riuscito a vedere, ma ecco, come, sì, non so adesso se è un pochettino chiara la mia risposta, però ecco, è difficile da dire a parole, è un'esperienza, no? Di sentirsi veramente che l'altro fa parte di te, che hai una cosa in comune e che non puoi spiegare chiaramente, ecco. Ho capito. E io penso che c'è una canzone che forse può anche aiutarci, una canzone che ha scritto un ragazzo israeliano, Moshe Benari, che praticamente si chiama Sheva Salam, Odiavo Shalom Aleinu, Che la pace sia con noi, e che viene cantata da questo ragazzo sia in arabo che in ebraico. E noi sappiamo, insomma, fino a pochi giorni fa c'è stata una guerra in quei territori, e quindi c'è veramente un bisogno grande di pace, un bisogno grande di pace per tutti. E quindi vi lanciamo questa canzone che vuole essere anche un augurio, e poi riprendiamo il nostro discorso. Ecco a voi Shaver Salam Odiavo Shalom Aleinu di Moshe Benari. Oggi di che colore sei, o meglio quale indosserai, lo scopriremo insieme su i colori dell'anima. Eccoci in onda, cari radioascoltatori di Radio Alma, siamo sui colori dell'anima, oggi 22 settembre 2014, e vogliamo salutare tutti gli amici che ci stanno seguendo sulla pagina Facebook. Un grande saluto a Valentina Volpe e a Dino Corbo, grazie ragazzi di seguirci, e fatevi sentire, scrivete, e vi ripeto ancora una volta la pagina, che è Tiziana, Leandro e Rossella On Air, o ancora il numero di telefono per contattarci, lo 02 345 2656. Su ragazzi, scrivete, scriveteci, oggi non c'è interazione, no? Ma però tutti I like, tanti like, tanti grazie. Like, ma parlateci, diteci cosa ne pensate, è un tema caldo questo, è una cosa bella, una discussione, infatti, che si qui può... la stanza sta andando a fuoco, tutto caldo. E infatti, ricordiamo che praticamente stiamo parlando di come costruire ponti tra religioni, e appunto ci sarà questo concerto il 18 ottobre alla Salle Clarige di Bruxelles, a Madou, a Chaussée de Louvain 24. Ah, mi ero dimenticato di dire che potete anche trovare informazioni sul sito www.focolare.be. E quindi parlavamo appunto di questo. Metteremo il sito sulla nostra pagina Facebook. Esatto, metteremo il sito sulla nostra pagina Facebook, come giustamente diceva Tiziana. Ecco, quindi stavamo parlando con Tony del modo in cui praticamente il movimento dei focolari cattolico praticamente porta avanti il dialogo religioso, interreligioso. Ma si basa appunto su, come dire, ecco, vorrei capire bene, è facile dire, no? Siamo amici, siamo fratelli, volemose bene, ma in concreto, non lo so, cosa ci puoi dire, Tony? Cosa si fa? Insieme. Scusa Tony, ci ripeti quello che stavi dicendo? C'è stato un piccolo problemino alla regia. Va bene, no, allora vi raccontavo, volevo un'esperienza che mi ha sorpreso, è stato che per 3 o 4 mesi ho vissuto insieme a un giovane buddista che partecipava a un periodo di formazione in un centro del movimento dei focolari per approfondire bene la spiritualità. Ecco, lui era l'unico buddista fra tanti cattolici. Ma mi ha sorpreso tanto, perché si vedeva in lui la necessità di capire bene cos'è che ci animasse. Lui in effetti non era proprio un buddista praticante. Allora, quando è tornato in Thailandia, il suo paese di origine, dove già aveva tanti contatti col movimento, ha deciso di entrare per 3 mesi, fare l'esperienza di monaco buddista, che è un'esperienza che fanno normalmente i giovani, ma che lui non aveva fatto. E allora mi sembrava il frutto più bello di questo stare insieme, che in lui è nata l'esigenza di vivere e di capire di più la sua religione. Mi ricordo che ci sono stati anche momenti difficili con lui, no? Perché la cultura buddista c'ha una visione dell'anima, del corpo, come molto legata all'aspetto spirituale. Allora a un certo punto lui ha avuto una malattia e sentiva che questo come un grande fallimento personale. E allora abbiamo cercato di stare accanto, di aiutarlo anche durante le fasi dell'operazione, siamo stati con lui in ospedale, ma alla riabilitazione. Ma è stato un momento bello anche per non cercare di forzarlo, che facesse lui il passo di prendere su questa malattia come una malattia, come così. Ma anche esperienze molto forti ultimamente nel dialogo che c'è con i musulmani, sono stati nella Repubblica Centrafricana, dove lì c'è stata una guerra civile, no? Sì, in cui ci sono state fazioni che si ispiravano, che si dicevano musulmane o cristiane, e in uno di questi momenti un sacerdote cattolico ha aperto la sua parrocchia a 2000 profughi di religione musulmana che volevano essere salvati, no? Sì, dovevano essere salvati perché i ribelli in quel momento si ispiravano, si dicevano cristiani. Ecco, allora a un certo punto questi ribelli hanno posto un ultimatum al sacerdote, e lui o farli uscire dalla chiesa oppure li avrebbero uccisi tutti. E lui non ha pensato: ma cosa posso fare? Cos'è che ho imparato io dall'ideale? Allora dalla spiritualità del movimento dei focolari, ho detto: beh, io ho imparato a dare la mia vita per i miei fratelli. Allora ha deciso: guarda, io rimango con loro, muoio con loro se è necessario. E 17 minuti prima del termine dell'ultimatum è arrivato l'esercito regolare che li ha liberati dal pericolo dei ribelli. E quindi, insomma, lui sentiva come un'esperienza, insomma, tanto di credere che Dio alla fine ci aiuta in tutte le situazioni, ma poi che per volere bene concretamente forse ogni tanto, cioè, può essere che ci venga chiesta la vita. Ma a volte sono anche atti più semplici che dobbiamo fare. Ma questo per dire un po' che cos'è il dialogo che noi cerchiamo di attuare. E credo che l'esempio che tu hai citato è il massimo della concretezza, tra l'altro. Vabbè, è veramente difficile da pensare che... Ma io penso che tante volte anche una grazia, una forza interiore che possiamo ricevere a fare certi passi, perché normalmente è già difficile dare la mano a volte, no? Ma... E come? E quindi questo, no? Ma senti Antonio, io sono una piccola curiosità. Com'è abitare 3 mesi con un buddista? Non si alza la mattina e prega con quello suo ecco, strumento? Ecco, per fortuna lui era anche artista, e questo fatto lo anche nel suo modo di vivere la religione era particolare, ma per fortuna lui non era come un monaco, quindi come una persona, cioè un giovane, quindi aveva i suoi ritmi normali. Mm-hmm. L'unica cosa che a lui piaceva tantissimo bere acqua calda, non so perché, ma beveva acqua calda in quantità industriali, il che non è tanto grave, perché non certo. Costa niente l'acqua calda. E il riso, e poi per il resto tutto... Forse sono sì. I segreti per una lunga e sana vita. Sì, non lo so, guarda, io comunque non ho incominciato a bere acqua calda. Bene, Antonio, guarda, era molto interessante ascoltarti. Io sono un po' senza parole qui in un angoletto, perché veramente sono parole che non si sentono tutti i giorni. Comunque volevo appunto proprio sottolineare questa cosa di cui parlavi tu, ecco, che è il bello di rispettare le differenze tra le diverse religioni, senza appunto cercare di prevalere l'uno sull'altro, ma appunto rispettando la differenza, riscoprirsi coscienti di se stessi, conoscere se stessi, e poi conoscere che in realtà abbiamo tutti qualcosa in comune, e questo è un messaggio forte, in cui proprio la musica, forse in questo concerto del 18 ottobre avrà un ruolo principale. E sicuramente la musica, la note sono quelle anche che anche fanno risuonare qualcosa dentro al cuore, e questo è anche un po' quello che cerchiamo di fare, no? Di far attraverso delle cose concrete, far nascere nel cuore un'esigenza di fare un passo in più verso l'altro. E a proposito di musica, tu ci hai chiesto di mandare in onda una bella canzone di un nostro artista, no? Un artista catanese, siciliano, Battiato. E qual è questa canzone? Ti chiederei di lanciarla. E perché l'hai scelta? Sì, ma è semplice, insomma, a me, anche essendo siciliano, Battiato mi ha sempre colpito, ma questa canzone in cui lui descrive un po' il suo dialogo con Dio, come fra amici. Allora mi sembra che accorcia tanto le distanze, mi fa sentire che sì, anche per me può diventare un dialogo trovarmi con Dio. E allora lanciamo questa bellissima canzone, E ti vengo a cercare, di Franco Battiato. Ed eccoci tornati in studio, amici radioascoltatori. Stiamo parlando di integrazione tra culture, stiamo parlando di religioni che si intrecciano, che si integrano tra di loro. E ancora una volta cerchiamo di farlo alla maniera dei colori dell'anima, quindi facendo parlare delle esperienze personali delle persone, cercando di dare delle sfumature dell'animo umano, cercando di dare un colore o delle sfumature di colore a quello che diciamo. E infatti è per questo che alla fine della trasmissione, anche durante la trasmissione, vi chiederemo di darci un colore. Ma io sto parlando al plurale. Perché parlo al plurale? Fino ad ora noi abbiamo parlato solo con un ospite, vero Rossella? Esatto, siamo molto di più in questa stanza. E tra l'altro, prima di introdurvi i nuovi ospiti, volevamo ridire i numeri di telefono, perché su Facebook ci chiedono: ma qual è il numero per chiamare? E allora, Francesco, apri bene le orecchie: 02 345 2656. Chiamate. Ecco, appunto, continuando questo discorso del dialogo tra religioni in questo approccio particolare del movimento dei focolari, i nostri ospiti ci hanno detto che recentemente c'è stato un convegno i cui partecipanti erano proprio di religioni diverse a Castel Gandolfo. Di cosa si è trattato? Sì, no, è come un evento, come in una famiglia ritrovarsi insieme, sempre una festa. Si è pensato di organizzare quest'anno un incontro a marzo, in cui sono state invitate tutte quelle persone di varie religioni che in qualche modo sono venute in contatto con il movimento nei vari posti. Quindi era proprio un miscuglio di tante religioni, e in cui si voleva dare è stata la prima volta in cui ci siamo ritrovati insieme di varie religioni, in cui ogni religione aveva la possibilità di donare qualche cosa alle altre. Ecco, questo è stato un evento storico anche per ciascuno dei partecipanti. È stato forse anche un trovarsi per la prima volta con qualcuno di un'altra religione. Ed eccoci, ecco, qui tra di noi abbiamo un'altra ospite, è la nostra amica Malu. Ciao Malu. Ciao, sei stata una dei partecipanti a questo congresso. Tra l'altro devo dire che questo Malu è un nome bellissimo, che ecco, è un'abbreviazione di Marie-Louise, quindi mi piace molto, dovevo dirlo e condividere questo con tutti gli ascoltatori. Malu, tu sei stata a questo congresso? Per me era la prima volta in cui potevo partecipare a un congresso interreligioso. Uh-huh. E eravamo 250 persone. Mm-hmm. Provenienti da 31 paesi. Wow. Da 8 diverse nazionalità. Mm. Religioni, scusa. 8 diverse religioni. Sì. Allora, un incontro così che rappresenta una novità assoluta anche per il movimento dei focolari. Allora, per me essere circondata da fratelli e sorelle di culture, lingue, appartenenze religiose diverse, riuniti perché credenti in Dio, padre di tutti gli uomini, mi dava un assaggio di paradiso. E ho compreso con meraviglia che loro erano capaci di accogliere il messaggio del movimento dei focolari, perché erano radicati profondamente in Dio. La vicinanza al movimento ha poi permesso loro di approfondire la propria religione, mm-hmm. i loro testi sacri, e scoprirne la bellezza e comprenderne meglio il loro senso profondo. Ad esempio, c'è un afroamericano, si chiamava, adesso purtroppo è morto. Non c'è più. Sì, si chiamava W. di Mohammed, Wallace W. Mohammed, e era un leader del movimento africano afroamericano musulmano degli Stati Uniti. del movimento dei focolari. Sì, sì. No, no, lui era un leader afroamericano. Ah, musulmani. D'accordo. Musulmano. Ma aveva conosciuto il movimento dei focolari. Okay. E dunque eravamo amici. E lui ha detto: il movimento dei focolari non insegna solo l'amore di Cristo, ma a viverlo. Avete toccato la mia vita, diceva lui, e avete donato il mio modo di esprimermi, attuare. Tutto quello che uscirà di me avrà un tocco di voi. Un monaco buddista, per dirvi qualcosa, diceva: sì. Quando si accende una luce nell'oscurità, non si domanda se la persona che l'ha accesa è un uomo o una donna, o che età abbia, la si ringrazia per la luce che ha dato. E allora è stato veramente bellissimo di incontrare tutte queste persone. C'erano buddiste, c'erano musulmane, c'erano sikh, c'erano da tutto il mondo. Che lingua parlavate? Allora, per fortuna nel movimento siamo abituati, perché appunto per amore per ciascuno, come diceva Tony, allora si traduce sempre, cerchiamo sempre di trovare qualcuno che vive in quella terra, che viene o che parla le lingue. Dunque c'è la traduzione per tutte le persone. Maioranza era inglese, così nelle pause, ma all'interno ognuno parlava la lingua che voleva, e dopo si traduceva in italiano, e noi avevamo le cuffie, chi non capisce italiano capiva in francese, in inglese, tutto quindi quanto. Quindi si continuava comunque a comunicare con ognuno con la propria lingua. Sì, sì, sì. Anche questo aspetto. Sì, questo è stato bello, anche perché se mi ricordo c'era una signora che era venuta dall'India, una che non capiva bene inglese, ma c'era qualcuno che traduceva per lei proprio. Sì. Senti, e così tutti possono partecipare. Certo, partecipare e scambiare, partecipare a questo scambio di cui certo, ci parlavi certo. Tu. Senti, cosa ti ricordi, un evento che ti ricordi in maniera particolare, che ti ha colpito, una scena, una persona? Immagino che sia stato tutto l'evento molto commovente e intenso. Però... Sì, in genere, sì. Allora, la prima cosa che mi ha proprio colpito è che quando siamo arrivati lì, proprio cercando di amare ognuno, c'era per esempio il cibo all'aria, c'era il kasher per gli ebrei, c'era la cucina per i monaci buddista. Tutto così, avevano cercato di rispettare tutto quello. Di rispettare anche le abitudini alimentari di queste diverse culture, sì. Okay. E per esempio noi cristiani, quando avevamo la messa, c'era un'altra sala dove c'erano i musulmani che andavano a pregare, avevano messo i tappeti e tutto. E penso che ognuno si è sentito proprio amato e accolto così. Allora, quando una partecipante del Belgio, musulmana, è venuta da me e mi ha raccontato di aver parlato per la prima volta con una ebrea. Era colpita particolarmente della relazione che era nata fra di loro. Si sentiva come sorelle, si sentivano tutte e due come sorelle. Lasciandosi, si erano commosse. Era veramente stupita di ciò, nello stesso tempo scopriva l'essere una sola famiglia. Scusate, no, avete capito che l'italiano non è mia lingua. Ma stai tranquilla, Manuazzo, sei bravissima. Si capisce tutto, stai tranquilla, e si sente anche la commozione nelle tue parole. Sì, certo. Quindi è molto naturale, non ti devi scusare. Quindi ecco questo concetto di riscoprirsi tutti famiglia e tutti differenti. Proprio sì. Bene, grazie per averci fatto condividere grazie un po' questi momenti, anche un po' logistici. E noi adesso lanciamo un'altra canzone di una corale musulmana che si esibirà proprio in questo concerto della Fraternité il 18 ottobre, la corale Risala o Risala e Ma Chère Sœur. Oggi di che colore sei, o meglio quale indosserai, lo scopriremo insieme su i colori dell'anima. Ed eccoci, abbiamo una chiamata in diretta, pronto? Pronto? Cue, cufu. Pronto. Un attimo, arriva, arriva. Arriva, arriva. Pronto. Chiamate, chiamate. Rossella, Tiziana e Leandro Neir, per chi vuole scrivere su Facebook. Sì, ragazzi, esatto, c'era qualche messaggio. Lea, dov'è qua sto computer? Ho già portato il suo computer degli anni 50, va con la manovella. Allora, a proposito, ci saluta, ecco, ci saluta fatto. Claudia con la piccola Giulia. Ciao Claudia, dai un bacetto alla piccola Giulia da tutti. E io approfitterei per salutare la nostra amica Serena Ferti, la nostra travel blogger, che questa sera non è con noi ma ci raggiungerà le prossime puntate con i suoi viaggi e con i suoi consigli. Salutiamo lei e la piccola Caterina, che cresce sempre più bella. Ciao Serena. E un bacetto alla piccola Caterina. E nel frattempo siamo in onda con una telefonata da un nostro carissimo amico. Vediamo un po' se lo riconoscete. Buonasera, buonasera. Buonasera, chi sei? Buonasera a tutti, volevo dire che siete proprio bravi. Ah, grazie signora, ma che bravi. Trasmissione. Ci piace la trasmissione, signora. Ma questa risata io la conosco questa risata. È come se la conosciamo. È proprio. Comunque no, siamo Angelo, Carla e Giampaolo, che verrà sostituito per la stagione 2014-2015 in anteprima da Cecilia. Grande notizia, questa non la sapevamo neppure noi. Intanto tanti saluti a Giampaolo dovunque sia. Ciao Giampaolo, torna presto a Bruxelles. Pronto, sì. Pronto, diteci, sì, tutto. Io sono sempre pronto, nato pronto. Mia mamma pronto mi fece e pronto rimasi. Ah, che bello, ci piacciono a noi pronti. Allora ragazzi, noi volevamo sapere da voi, cioè, voi ci state chiamando perché avete un'informazione da condividere con noi. Lo sappiamo, lo sappiamo. Lo sappiate, lo sappiamo, lo sappiamo tutti. No, ma bello, bello il tema che state trattando questa sera. La comunicazione e l'interlacciamento tra le culture attraverso la musica, che è una cosa bellissima, perché abbiamo appena ascoltato un brano di una corale islamica, se non vado errato. Esatto, esatto. È bellissimo, cioè faceva una beffa Lady Gaga, che adesso è alla Grand Place insieme a Steve Bennett. Non ci andate, ascoltate la corale islamica. Bravo Angelo. No, ma proprio su questa scena, perché la musica è un linguaggio e ogni cultura e ogni persona ha il proprio linguaggio. È bene che se questo venerdì non avete niente da fare, potete venire gratuitamente al auditorium del Conservatorio Reale di Bruxelles alle 20 a Rue de la Régence numero 30A, e ci sarà un concerto in poche parole un concerto per il rientro accademico dell'anno 2014-2015 del Conservatorio, ed è un bellissimo concerto perché ogni sezione del Conservatorio Jazz, tromba, sassofono, trombone e anche la big band, faranno dei piccoli mini concerti che poi daranno vita al concerto intero. Quindi il concerto durerà intorno all'ora e mezza, un'ora e tre quarti, ed è composto da piccoli concerti, dalla sezione di tromba alla sezione di sassofono, e il linguaggio che si userà quella sera sarà il linguaggio di musica jazz, un linguaggio di musica contemporanea. Speriamo che speriamo di vedervi venerdi sera a Rue de la Régence 30 per All About Jazz. Benissimo. Grande, grande, grande, grazie, grazie Angelo. Grazie Angelo. Allora ci segniamo nelle nostre agende 27 settembre e 18 ottobre, ragazzi. Due concetti imperdibili. Grazie. Eccitatissimi. E benvenuta Cecilia, nei colori dell'anima. Benvenuta noi nei colori dell'anima. Grazie ragazzi, fateci sognare con un'altra corale islamica. Ciao, continuate ad ascoltarci. Ciao, il 26 settembre, ciao. Ciao, e ringraziamo e salutiamo anche Valeria Lobello, che ci manda un abbraccio da Catania. Ciao Valeria. Il tempo stringe. Allora iniziamo dicendo qual è il colore della trasmissione e subito diamo un po' di informazioni pratiche relative al concerto. Esatto, allora, quale colore scegliamo per stasera? Malu e Tony. Ma io non so, il mio colore preferito è sempre un po' l'azzurro, perché mi ricorda un po'. Aspetta, aspetta, aspetta, ecco. Tony, i soliti problemini di regia. Bella, va, giudiziana. Eccoci, eccoci, vai, vai. Ecco, vai, allora no, dicevo che il mio colore un po' preferito è un po' l'azzurro, che mi ricorda il mare della Sicilia, ma poi pensando anche alla panorami che si possono ammirare, anche questo azzurro che si fonde un po' col celeste del cielo, l'azzurro del mare, il blu del mare, l'azzurro del cielo, insomma, che in fondo, ecco, quando ci incontriamo in quell'orizzonte, siamo un po' un'unica cosa, ecco. E allora io spero veramente che sia anche questo concerto che stiamo organizzando un momento per sperimentare questo bellissimo panorama che possiamo formare insieme. Malu, e tu hai un colore particolare che vorresti dare alla trasmissione o ti associ ad Antonio? Sì, sì, anche io ho un colore, è l'arancia. Perché l'arancia? Perché ho sempre trovato un colore luminoso e che caldo. Bello, che mi piace. Trasmette il calore dell'amicizia, il calore di essere insieme, no? Di diverse culture che... fa questo un po' come quando tutti siamo insieme e c'è questa calore umana che viene. Allora mi fa pensare a questo colore di arancia, che è coloroso e anche luminoso per le idee che possono venire fuori essendo insieme. A volte si capisce chi siamo vedendo l'altro, ascoltando l'altro. Bellissimo, grazie, d'accordissimo. Grazie. E allora diamo un altro po' di informazioni pratiche. Se volete mettervi in contatto con il Movimento dei Focolari in Belgio, potete contattare il sito www.focolare.be. E invece il concerto è il 18 ottobre, da non mancare assolutamente, alle ore 18 inizia il concerto. Il concerto inizia alle 18, dalle 17 si può entrare quindi nella sala. Dalle 17 sì. In Chaussée de Louvain 24, quindi esatto. Vicino Madù. E parteciperanno appunto questa corale di cui avete appena ascoltato la canzone, il corale di sala, e un ensemble East Belgica che è della parte germanofona del Belgio, anche quella è una sfida. Di mettere insieme qui in Belgio le differenti culture e poi anche una corale Nativitas che nasce, diciamo, che si occupa spesso di fare dei concerti per persone un po' in situazioni difficili, sono andate spesso nelle carceri, e anche una soprano, Inez Carso, che farà un pezzo di opera. Allora un programma imperdibile. Allora vi aspettiamo tutti il 18 ottobre. E grazie ai nostri ospiti. E saremo lì sicuramente. Speriamo di vedervi. Sì, bisognerà prevendita, sì. È meglio fare prima perché sì, andate sul sito e troveranno tutte informazioni. Sì. Grazie ragazzi, grazie di essere state con noi. Grazie, allora grazie a voi, grazie vi a salutiamo, grazie a voi, vi grazie. Salutiamo con una canzone del Gen Rosso, Un'altra umanità. Un abbraccio a tutti, ciao, alla prossima!